Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Pensate a un oggetto grande 1 mm per 0,3 mm. Che cosa può essere? Sono i sensori che saranno montati sui nostri oggetti quotidiani, ma anche sui componenti degli oggetti, sugli utensili e su tutto ciò che in fabbrica verrà assemblato, ma anche sui vestiti che saranno montati dappertutto e che trasmetteranno le informazioni essenziali di tutto ciò che avviene, dando poi luogo a quei big data dei quali vi ho parlato molte volte, perché l'analisi di questi big data sarà il cuore di quella che è l'Industry 4.0. 1 mm per 0,3 mm, dove invece quelli più complessi e più dotati di capacità trasmissive saranno 5,6 mm per 5. Chi è il più grande produttore al mondo di questi sensori? È la Robert Bosch, una delle maggiori aziende tedesche, con 70 miliardi di euro di fatturato e soprattutto una delle aziende all'avanguardia in quella che è l'Industry 4.0. Anzi, forse una delle aziende che hanno inventato l'Industry 4.0, perché l'Industry 4.0 è figlia della AIG Tech Strategy for Germany, cioè una strategia che è stata formulata in Germania per la politica industriale tedesca, strategia tesa a formulare un unico sistema integrato. Nella commissione che ha fatto questa strategia c'erano aziende, c'erano politici, c'erano studiosi e tra le aziende, oltre a Siemens di cui abbiamo appena parlato la scorsa settimana, c'era anche Robert Bosch. Oggi abbiamo come ospite il dottor Gerald Dambach, che è l'amministratore delegato di Robert Bosch in Italia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi diceva che questi sensori che poi trasmetteranno le informazioni sono ormai tra i vostri business principali. Come importanza sì, come fatturato ovviamente no, perché abbiamo in totale 380.000 persone e solo una piccola parte lavora in questo ambiente. Comunque è un settore che sta crescendo molto forte. Abbiamo cominciato 10 anni fa a dedicarci alla produzione di questi piccoli componenti perché ci servivano per il mondo auto. Oggi abbiamo una produzione che giorno per giorno vende tra 4 e 5 milioni di questi piccoli sensori a tutto il mondo, a tutti i settori, e diventa sempre più importante avere una possibilità di crearsi un mondo digitale, un sistema cyberfisico da quello che è la realtà, perché solo così riusciamo a lavorare a distanza e analizzare bene questi sistemi. Ecco, ricordo ai nostri ascoltatori che Robert Bosch, sulla quale sentiranno poi una scheda, fa circa 70,5 miliardi di fatturato nel mondo. In Italia fa 2,2 miliardi di fatturato e 1,3 miliardi di valore aggiunto, cioè vuol dire che vengono vendute merci per un valore di 2,2 miliardi e vengono prodotte merci per un valore di 1,3 miliardi che poi vengono vendute in tutto il mondo. È una società che fa componenti auto, fa sistemi di automazione, quindi anche robot, fa elettrodomestici, anche frigoriferi, Robert Bosch ci sono ancora, e fa anche tecnologie per l'energia. Quello che mi interessa del confronto con il dottor Dambach è che sull'Industry 4.0, argomento che è centrale per questa trasmissione, tant'è che noi ci chiamiamo Fabbrica 2.4 non a caso, ecco, sull'Industry 4.0 lui ha una visione molto graduale, molto realistica. Ricordo agli ascoltatori che Industry 4.0 significa totale interconnessione tramite sensori e telefonia cellulare di tutta la produzione, totale monitoraggio di tutto e quindi una rivoluzione nella fabbrica. Però questo deve essere introdotto gradualmente, no, dottor Dambach? Assolutamente. Anche le aziende grandi oggi stanno facendo piccoli passi per sperimentare. Noi qui siamo responsabili per il mercato italiano, che ha vissuto 7-8 anni molto difficili. E dobbiamo anche renderci conto che un'azienda che sta lavorando ancora oggi non ha più tante riserve. Se parliamo di Industry 4.0, non parliamo di qualcosa che si riesce a vendere con un prezzo più alto, ma si parla soprattutto della possibilità di abbassare il costo di produzione. Perciò tutti gli investimenti che oggi uno vuole o deve fare rendendosi conto che deve risparmiare in poco tempo quello che sta investendo. Le riserve oggi normalmente non ci sono per fare investimenti e aspettare molto a lungo, fino a quando poi ci saranno i ritorni. E questa è sicuramente la sfida principale: come gestire oggi i progetti di Industry 4.0 senza rischiare la propria azienda, ma avendo certi successi già a breve termine. E quindi cosa devono fare le imprese che ci ascoltano? Tra l'altro noi siamo Radio 24 e il nostro pubblico è proprio fatto di imprenditori e di manager. Che cosa gli diciamo? Il manager, o soprattutto chi ha a che fare con la fabbricazione, deve capire che cosa sta dietro, quali sono gli obiettivi a medio e lungo termine, ma non deve confondere questi obiettivi con quello che deve fare a breve. Se uno aspetta fino a quando potrà stravolgere la sua fabbrica, deve aspettare un po', ma questo tempo non c'è. Dobbiamo cominciare con piccoli passi per avere subito ritorni immediati. E poi dopo questi pezzi naturalmente devono congiungersi per andare alla fin fine nella direzione corretta. Devono capire ex ante qual è l'obiettivo dell'industria 4.0, ma poi cominciare con piccoli progetti che di per sé possono già autofinanziarsi. Ecco, ma diciamo che per arrivare a un sistema di Industry 4.0 veramente compiuto ci vorranno circa 10 anni. Ma non sono nemmeno sicuro se entro 10 anni abbiamo fatto tutto quello che possiamo o dobbiamo fare. Ma è un processo che andrà avanti, perché ogni tecnologia che implementiamo oggi già in un domani potrà avere un seguito ancora più interessante. È più importante che facciamo progressi rispetto alla situazione che abbiamo oggi, e qui ce ne sono tante aree in cui si riesce a cominciare a efficientare la sua fabbrica, e questo è da fare. Ecco, l'Industry 4.0 garantisce un efficientamento, perché la totale digitalizzazione fa sì che ci siano forniture in tempo reale. Infatti tante volte si dice, l'abbiamo detto con Viscardi, che è un imprenditore che è stato da noi qualche puntata fa, che con l'Industry 4.0 produci un prodotto in meno di quello che ti serve, e quindi la totale interconnessione porta a una produzione in tempo reale, dunque non c'è il magazzino, e non dovere investire o bloccare delle risorse economiche per avere il magazzino porta a un enorme incremento di efficienza, no, dottor Damba? Certo, ma questa è già una visione a medio e lungo termine. Comincerei con un passo più piccolo. Se oggi nella mia fabbrica ho un problema con una macchina che ogni tanto crea problemi di qualità, io mi concentro su questo punto, cerco di digitalizzare questa macchina, analizzare bene che questa macchina mi dice e anticipare i problemi. A questo punto faccio un piccolo progetto che in un domani mi fornirà già delle informazioni che possono anche aiutare a ottimizzare il flusso del materiale. Ma oggi mi risolvo un problema molto concreto in fabbrica, e questo problema mi risparmierà sicuramente qualcosa sulla manutenzione, e soprattutto non ho delle sorprese nella produzione. Ecco, a me piace molto questa sua visione, perché tante volte, sentendo i produttori di software o di servizi di informatica, che sono quelli che fanno più propaganda sull'Industry 4.0, sembra che uno debba cambiare tutto subito e fare elevati investimenti in IT risolvendo i suoi problemi, ma non è così, perché l'azienda vende i suoi prodotti, non vende l'Industry 4.0, quindi bisogna essere più realistici e procedere per gradi. Sono fortunate le aziende che oggi possono permettersi di ragionare in dimensioni talmente grosse che possono anche installare nuovi sistemi, software, insieme con tutto quello che deve comunque essere fatto in fabbrica. Io penso più per la massa degli imprenditori che oggi devono contare i soldini in cassa e che possono fare solo piccoli passi e devono fare quello che servirà in futuro per non perdere adesso soldi, ma che si autofinanzierà subito. Questo è assolutamente importante. Ecco, voi potete dirlo perché siccome voi avete le fabbriche degli altri come clienti, ma avete anche le vostre fabbriche, voi sperimentate questi sistemi all'interno delle vostre fabbriche e poi usate l'esperienza che avete fatto per proporre soluzioni ai clienti che sono fuori, giusto? Assolutamente giusto. Noi abbiamo più di 300 fabbriche in tutto il mondo e stiamo lavorando in mercati molto difficili. Sappiamo che il mercato auto è un mercato molto demanding, ma anche chi produce oggi ancora un frigo in Europa sa che i costi devono essere assolutamente sotto controllo. Perciò abbiamo la pressione nel mercato di avere la massima efficienza all'interno delle nostre fabbriche. Se pensiamo solo che abbiamo ancora 120... Ma soprattutto accumulate un know-how in termini anche di 4.0, un know-how che poi potete proporre ai vostri clienti. Sì, innanzitutto lo proponiamo anche ai colleghi. Abbiamo creato una rete all'interno della nostra azienda per informare tutti quanti che oggi non hanno ancora fatto passi importanti per mettersi in connessione con i colleghi che sono già avanti. Noi abbiamo lo stesso problema all'interno della nostra azienda che vedo sul mercato. Ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Gerhard Dambach, che è l'amministratore delegato in Italia di Robert Bosch. Robert Bosch è una delle più grandi aziende meccaniche del mondo ed è anche una delle aziende meccaniche più avanzate rispetto a temi come l'internet delle cose, la fabbrica 4.0 e l'automazione del manifatturiero. Anche perché questo lo può fare per via di quelle che sono le sue attività che si incrociano molto bene con tutto ciò, perché fa sia i componenti auto sia le tecnologie per l'automazione. Assolutamente corretto. Ecco, in Italia è molto importante quello che voi fate per l'automotive. Sì, questo è il business principale non solo per noi in Italia ma per il gruppo. Facciamo ancora il 60% del nostro fatturato con il mondo automotive. Speriamo che cresce questo fatturato, ma l'obiettivo dell'azienda è aumentare nelle altre aree ancora di più per bilanciare un po' meglio il fatturato. Già durante la crisi abbiamo visto quanto è importante avere diversi campi su cui si riesce a lavorare, anche se in un certo settore il business non va. In Italia quanti stabilimenti avete? Abbiamo intorno a 35 stabilimenti, siti che su cui operiamo. Sono attualmente 18 aziende con cui siamo attivi e sono circa 6.000 persone che lavorano in Bosch. Ecco, Italia. Per avere un'idea di che cos'è esattamente Robert Bosch, ecco una scheda. Robert Bosch è una multinazionale tedesca che fattura circa 70 miliardi di euro e ha 320.000 dipendenti nel mondo. La società, che prende il nome del suo ideatore, è guidata dall'amministratore delegato Franz Fehrenbach. E ha sede a Gerlingen, a 9 km da Stoccarda, dove venne fondata da Robert Bosch nel 1886. Una realtà che fece subito breccia nel mondo meccanico e automobilistico grazie all'invenzione del magnete per accensione a bassa tensione, popolarmente noto come candela per auto. Il suo fondatore era un personaggio geniale e poliedrico, un inventore talentuoso, filantropo e oppositore al nazismo. Prima di morire, Robert Bosch dispose che il controllo della sua azienda passasse a una fondazione filantropica e senza fini di lucro, che ancora oggi ha in mano oltre il 90% del capitale. Anche per questo motivo, la multinazionale tedesca non è quotata in borsa. Robert Bosch è il maggior produttore mondiale di componenti per automotive, che attualmente generano circa il 60% dei suoi ricavi. È anche attiva nella fabbricazione di semiconduttori, elettrodomestici, prodotti per la generazione e la trasmissione di energia, motori di vario tipo, elettroutensili come trapani e seghe circolari. Negli elettrodomestici, Bosch è il terzo produttore europeo e uno dei primi al mondo. L'azienda è presente in 150 paesi con 90 stabilimenti produttivi e 300 filiali commerciali. Insieme a Siemens e al governo tedesco, Robert Bosch è tra gli inventori del concetto di Industrie 4.0 e all'avanguardia nel suo sviluppo. Il suo payoff è tecnologia per la vita. In Italia, Robert Bosch, guidata dall'amministratore delegato Gerhard Dambach, fattura circa 2,2 miliardi di euro e produce direttamente merci per un controvalore di 1,3 miliardi. L'azienda tedesca, che ha 6.000 dipendenti, è presente nel nostro paese fin dal 1904, con 19 società controllate, 4 centri di ricerca e stabilimenti produttivi a Cremona, Reggio Emilia, Modena e Bari. Rieccoci in linea dopo la scheda. Stavamo parlando con Gerhard Dambach di Robert Bosch e una delle domande che gli volevo fare riguarda il business degli elettrodomestici. E che è un business che in Italia è andato quasi sparendo. Purtroppo Merloni ha dovuto vendere a Whirlpool e Candy ha dovuto delocalizzare e è rimasto molto poco. Eppure Robert Bosch resta uno dei principali produttori di elettrodomestici in Europa e continua a produrre in Europa con stabilimenti in Spagna e in Germania e non ha la minima intenzione di uscire da questo tipo di attività. Ecco, ci può raccontare com'è la vostra attività nel settore degli elettrodomestici, perché avete deciso di mantenerla e perché avete deciso di mantenerla qui in Europa? Innanzitutto gli elettrodomestici normalmente sono voluminosi, vuol dire trasportare un tale bene dall'Asia in Europa non è, per quanto riguarda l'effetto logistico, la cosa più intelligente da fare. Poi dipende sempre dall'efficienza che uno raggiunge all'interno della sua fabbrica. Abbiamo una logistica all'interno della divisione elettrodomestici che è molto molto efficiente e anche le fabbriche sono ben rodate. Sono processi in cui alla fin fine il costo del personale è rilevante, ma non più così rilevante che alla fin fine uno deve abbandonare stabilimenti che in decenni sono maturati e oggi hanno delle capacità produttive importanti, soprattutto anche per quanto riguarda la qualità. Poi ci sono tanti altri vantaggi, una fabbrica che è vicino anche al consumatore, qui sappiamo che il mercato degli elettrodomestici non è un mercato uguale per tutti i paesi e il consumatore che alla fin fine sceglie il suo prodotto e qui dobbiamo essere anche vicini ai gusti dei nostri clienti. Perciò è meglio avere qua la vicinanza e poter reagire anche abbastanza velocemente su quello che sta svolgendosi su questo mercato. Ecco, ma è profittevole la vostra attività negli elettrodomestici oppure perdete qualcosina? No, è molto profittevole, abbastanza almeno. Siamo stati così contenti che abbiamo comprato il 50% di questa azienda che prima era una joint venture. La BSH, che voleva dire Bosch Siemens. Tradizionalmente si chiamava Bosch Siemens Haushaltsgeräte, che era una joint venture per tanti decenni che avevamo insieme con il gruppo Siemens. Siemens è uscito da questo business orientandosi più verso business diversi. Invece per noi questo business storicamente era un business interessante e anche in futuro vediamo tante opportunità, perché è un business vicino al cliente, un business che tecnologicamente ha ancora tanto da sviluppare, anche se pensiamo a Industria 4.0, connettività del prodotto, elettrodomestici hanno un contatto diretto con le nostre famiglie, perciò qua vediamo ancora tanto che possiamo fare, tante tecnologie che possiamo inserire, perciò per noi è un mercato molto interessante. Certamente, e voi siete anche impegnati con Fiat e con altri costruttori di auto sul fronte dell'auto del futuro. Che cos'è che state facendo su questo? A parte del nostro business principale nel mondo auto, che riguarda l'iniezione o benzina o diesel, abbiamo oggi già in mano tantissimi prodotti, tutto quello che ha a che fare con elettrica o elettronica all'interno della macchina. Ma l'area che attualmente sta sviluppandosi più rapidamente è sicuramente l'area della guida autonoma. E questa è un'area in cui servono tutti i componenti, ma serve sempre più software e servono i sensori e serve l'analisi video e l'analisi radar. E queste sono tutte delle competenze che abbiamo sviluppato all'interno del nostro gruppo e oggi possiamo utilizzarlo per ottimizzare questa guida autonoma. Ecco, voi tra l'altro state sempre di più sviluppando software, come molte aziende manifatturiere avanzate vi state trasformando in una sorta di software house anche voi. Diciamo così, la specie che sta crescendo di più all'interno della nostra azienda sono sicuramente ingegneri che riescono a programmare o a gestire software. Questa è l'area che ci interessa anche di più. Recentemente abbiamo lanciato una nostra cloud, perché la gestione dei dati in futuro sarà... Anche perché voi fate i sensori, fate i sistemi elettronici e questi sistemi generano dei big data che poi devono essere monitorati. Dunque, per servire il cliente in modo completo dovete dargli anche degli strumenti per monitorare, analizzare questi big data e trarne delle informazioni strategiche, giusto? Esatto, e questo è anche il punto di partenza. Dobbiamo garantire per le nostre fabbriche che siano attrezzate con questa tecnologia, dobbiamo offrire questo servizio comunque, e sarà in futuro anche decisivo offrire questo servizio al cliente che vuole essere sicuro che questi dati che lui lascia comunque in un sistema esterno siano sicuri. E certamente. E voi soprattutto vi interessate al tema dei big data per l'industria automobilistica? Sì, questa industria, come già detto, è molto molto demanding. Qua il nostro cliente ha naturalmente l'aspettativa che la produzione sia quella più efficiente possibile. A questo punto, se abbiamo una rete mondiale, spesso non abbiamo solo una fabbrica in cui produciamo certi componenti, ne abbiamo 5 o 10, anche per essere in grado di compensare qualsiasi evento che succeda, non possiamo fermare un cliente solo perché una nostra fabbrica ha subito un danno. E a questo punto diventa molto importante capire se le fabbriche hanno sempre lo stesso o almeno un simile livello di efficienza, ma si può anche fare una gara tra queste fabbriche, e con Industry 4.0 io dispongo di tutti i dati che mi fanno capire esattamente qual è il grado di efficienza delle varie fabbriche. E a quel punto basta identificare quelle che hanno aree di miglioramento, si identifica anche esattamente dove perdono, e a quel punto si riesce ad intervenire in maniera mirata per ottimizzare queste fabbriche. Certamente. E voi adesso siete anche coinvolti in questa collaborazione tra FCA e Google, no? Sì, FCA per noi in Italia naturalmente è il cliente principale in assoluto. Ma anche Google è un vostro cliente? Sì, anche Google. Cosa fate per Google? Aiutiamo a fare non solo produrre ma anche camminare queste macchine. Diciamo, la guida autonoma della Google ha bisogno di supporto. Google non è tradizionalmente un'azienda specializzata nel mercato auto, hanno bisogno di fornitori che... li fanno anche produrre queste macchine. Quindi dietro la Google Car c'è un forte contributo di Robert Bosch. Siamo contenti con la collaborazione, anche se è una collaborazione molto diversa da quella che conosciamo da questo mercato, perché chi non deriva dal mondo auto ha forse un approccio leggermente diverso, e diciamo, quando riguarda l'innovazione e anche la velocità di sviluppo, il mercato auto deve adeguarsi forse anche ad altri mercati. Grazie dottor Dambach. Grazie a lei. Arrivederci, a domani ore 13:15.